24 mattino. Sono le 8 e 15 minuti, 24 mattino e radio24.it è la nostra mail, i messaggi al 349-238-6666 e è il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Eccoci qui con Deborah Rosciani. Deborah, ben ritrovata. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, oggi è una giornata importante. Chi segue GR24, insomma, abbiamo letto i giornali, se ne parla da qualche giorno. C'è il famoso tavolo a Palazzo Chigi al governo in cui si deve discutere degli incentivi al settore dell'auto per fronteggiare la crisi. Insomma, qualcosa già si sa, sono uscite già le prime cifre, indiscrezioni, Deborah. Si parla, sì, esattamente, di un pacchetto che potrebbe arrivare a 300 milioni di euro. Il settore chiede un ritorno degli incentivi alla rottamazione e il sostegno ovviamente anche al credito per le aziende, supporto al consumo per chi compra a rate. Comunque il settore è in fortissima crisi, lo sappiamo, dagli Stati Uniti all'Europa al nostro paese il comparto vive un momento difficilissimo. Lunedì lo stesso amministratore delegato di Fiat, Sergio Marchionne, ha dichiarato che senza intervento del governo c'è il rischio che 60.000 lavoratori del settore auto restino a casa. Ieri sera i vertici Fiat sono stati convocati a Palazzo Chigi per indicare nel dettaglio di quale sostegno necessita il gruppo, il settore e tutto il suo indotto. Il 2008 è stato uno dei peggiori anni per il settore, l'arresto produttivo di questo comparto è un dato di fatto, viene motivato in prima battuta con la crisi economica, l'acquisto dell'auto è una spesa impegnativa, molte famiglie riflettono un po' prima di sostenerla. Allora sentiamo a questo proposito proprio l'intervento di un ascoltatore intervenuto recentemente a Salvadanaio, la nostra trasmissione delle 12, nel corso di una puntata dedicata al tema della crisi economica. È vero che c'è recessione, è vero che c'è gente in difficoltà, però è anche vero che c'è gente che non è in difficoltà. In questo caso faccio il mio esempio specifico, volevo sostituire la macchina di mia moglie e non mi mancano le possibilità per sostituirla, ma si è creata una situazione così, come si può dire, allarmistica, che mi ha indotto a non sostituirla. Questo, a mio giudizio, è un errore, è una, come si può dire, è una pubblicità negativa. Certo, però mancata. Paolo, però se lei molto lucidamente riconosce che è condizionato dal fattore psicologico, allora una volta riconosciuto il problema, perché non lo supera? Perché l'auto non l'acquista lo stesso, anche se, visto che ne ha le possibilità. Ma proprio per questo, perché tutti i giorni sono martellato da pubblicità negative, siamo in recessione, non abbiamo qui, non abbiamo là. E anche se ho i 10.000 euro per sostituire l'automobile, mi freno e dico, a questo punto sposto l'acquisto in avanti. Insomma, Alessandro, tutta colpa tua perché parli di crisi dalla mattina alla sera a Radio 24, sì. Quindi i nostri ascoltatori sono condizionati. Questa sicuramente era una testimonianza particolare. Di fatto, prima dell'acquisto dell'auto, in molti ci pensano, però qualcosa si sta muovendo a favore del settore. In particolar modo c'è un po' di fermento e di movimento nell'ambito delle concessionarie. Cosa stanno facendo in questo momento per attirare clientele in un momento difficile? Lo ha scoperto con un'inchiesta pubblicata su Quattro Ruote, appunto questa pubblicazione. Il mese di febbraio, Emilio De Leidi, caporedattore mercato inchieste di Quattro Ruote. Buongiorno Emilio, ben ritrovato a Soldi e Dintorni. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, se siete andati voi con le vostre consuete inchieste, le famose barbe finte di Quattro Ruote, a caccia appunto di concessionari, delle promozioni che stanno attivando in questo momento per approfittare e cavalcare anche il momento della crisi, che cosa avete scoperto? Abbiamo scoperto che, come spesso accade, in queste situazioni c'erano delle buone opportunità per i consumatori. Le case automobilistiche e i concessionari hanno bisogno di vendere, hanno bisogno di smaltire soprattutto gli stock di vetture in giacenza o comunque che sono già state ordinate alla casa, e quindi fanno delle condizioni estremamente favorevoli, con sconti che possono arrivare anche al 20-25% del prezzo teorico di listino, che ormai ha perso un pochino di significato. Quindi il prezzo reale è quello poi praticato sul mercato nella contrattazione effettiva rispetto alla cifra teorica degli listini pubblicati dalle case e riportati dalle riviste. Quindi tutto sommato, per esempio, un ascoltatore come quello che abbiamo sentito prima, che avrebbe teoricamente la disponibilità economica per poter fare l'acquisto, potrebbe addirittura farlo in questo momento e fare un acquisto anche migliore, no, di quello che in realtà avrebbe preventivato. Ma certamente è il momento in realtà di comprare, superando i blocchi psicologici pur comprensibili di cui abbiamo sentito parlare dall'ascoltatore, perché le condizioni sono favorevoli. Pensate che in queste prime settimane dell'anno alcune case automobilistiche fanno della campagna parlando, tra l'altro anche la Fiat stessa, di rottamazione, dicendo non la fa il governo, lo sconto della rottamazione te la faccio io, ponendo in alcuni casi delle condizioni sul fatto che vengano effettivamente rottamate delle vetture Euro 0, Euro 1, Euro 2, in altri casi invece addirittura dicendo rottama quello che vuoi, perché rottami qualcosa, non ti pongo dei vincoli. È un modo, che è stato spiegato per esempio nel caso della Renault, per cavalcare l'onda del concetto di rottamazione di incentivi. L'incentivo te lo diamo noi se non te lo dà più lo Stato, che sono dei termini familiari al linguaggio dei consumatori. Ecco, anche perché va ricordato, e questo è un altro aspetto che sottolineate voi nella vostra inchiesta, c'è una particolare tendenza relativamente ai prezzi nell'ambito dell'usato, che continuano ad avere, l'usato continua ad avere, se non ho capito male, Emilio, delle quotazioni piuttosto alte, quindi forse in questo momento, anche se effettivamente la spesa magari è un po' più impegnativa, vale la pena di puntare sul nuovo, proprio perché si riesce a fare un acquisto di maggior, evidentemente, qualità, questo è scontato. Certo, allora diciamo l'usato sta rivelando la tendenza di una forte tenuta, addirittura non dico rialzo, ma comunque consistente, delle vetture dei segmenti inferiori. Parliamo delle city car, parliamo di macchine come la Panda, che abbiamo definito una specie di tesoretto, no? Chi ce l'ha tende a non venderla, chi non ce l'ha vorrebbe comprarla, ma la trova usata a prezzi relativamente elevati. Stiamo parlando di auto, per esempio, del 2003, 2004, 2005, che ancora oggi valgono almeno 5.000 euro. E pensate che nuova può essere comprata a 8.000, 9.000, 10.000. Allora è il momento magari di, come si dice, darla dentro a un concessionario, farsela valutare molto bene e fare un upgrade, passare una vettura di una categoria superiore con una differenza di spesa, giocando sull'alta valutazione dell'usato e sugli sconti del nuovo, assolutamente relativa. Oppure addirittura si compra molto bene l'usato delle categorie superiori, dal segmento D in poi, intendo per esempio BMW serie 3, Audi A4, eccetera, sempre di anni come 2004-2005, un po' meno se a benzina, perché più richiesto, perché può essere trasformato grazie agli incentivi a GPL metano con degli sconti e degli incentivi governativi, si compra facilmente il diesel molto chilometrato ormai ha uno sbocco solamente praticamente sui mercati dell'est europeo. Ecco Emilio, come ci suggerisci di impostare una trattativa con un concessionario in questo momento per trarre il miglior vantaggio possibile dall'acquisto? Ma innanzitutto direi girare, magari se non si è fissati su un modello, comparare sul numero di offerte possibili tra case automobilistiche diverse. Se invece si è scelto un modello, comparare punti vendita diversi, concessionari diversi, perché ognuno ormai fa una politica di prezzi diversi, e puntare sulla pronta consegna. Noi abbiamo visto che un modello super accessoriato in pronta consegna viene offerto scontato allo stesso prezzo di un modello senza quegli stessi accessori, magari per esempio il condizionatore, il servosterzo e così via, da ordinare. Perché? Questo perché evidentemente i concessionari vogliono smaltire le auto in stock e le auto già ordinate alla casa. Il risultato è che magari si può prendere, faccio un esempio concreto, per 13.000 euro una Smart con metallizzato, cambio automatico, servosterzo e radio, la stessa vettura allo stesso prezzo senza tutti questi accessori deve essere ordinata e arriva magari a marzo. Insomma, ecco, prendere un po' il concessionario per la gola in questo momento, Emilio. Esatto. Detta brutalmente. Non si risparmia, però si ha un'auto molto più completa, più ricca, più dotata di accessori. Infatti, un'ultima considerazione negli ultimi secondi di tempo che ci rimangono: il credito al consumo è il vero motore delle vendite di auto in Italia, visto che il 65% avviene con pagamenti rateali. Adesso, se dovesse intervenire il governo anche agevolando ulteriormente l'acquisto a rate, come vedi un intervento di questo tipo, Emilio? Ma è assolutamente indispensabile, perché uno dei motivi proprio del blocco delle vendite è questo, cioè è diventato molto più difficile avere il credito al consumo, avere il finanziamento per acquistare l'auto. I concessionari se ne lamentano, le finanziarie delle case hanno un pochino ristretto i criteri e la grossa deficit di liquidità del sistema bancario ci ha messo del suo. Mm-hmm. Quindi un intervento in questo senso può essere assolutamente non solo auspicabile ma risolutivo. Grazie molto e buona giornata ad Emilio De Lei, caporedattore mercato inchieste di Quattro Ruote, tra l'altro ospite molto spesso anche della nostra trasmissione con Roberto Rasia dal Polo Quattro Ruote dintorni. Buona giornata Emilio, presto. Buongiorno, buona giornata a voi. Buona giornata, grazie molto. Alessandro. E allora è il momento di capire cosa succederà oggi alle 12 con Salva Danaio. Ah sì, ritorniamo tra l'altro sul tema. Ah sì, ti eri dimenticata, tema, no, sei esatto, in sul tema previdenziale, fondi pensione e ancora l'impatto della crisi su fondi pensione e sulle casse previdenziali. E allora grazie Deborah Rosciani, noi ti ritroveremo domattina. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8.31 minuti, 24 mattino e radio24.it è la nostra mail. Diamo uno sguardo alle ultime notizie. Trovata l'intesa nella maggioranza sul fronte delle intercettazioni, per avviare le intercettazioni serviranno gravi indizi di colpevolezza e non potranno durare più di 45 giorni. Intanto oggi vertice a Palazzo Chigi per discutere degli incentivi al settore dell'auto. Il pacchetto non dovrebbe superare i 300 milioni di euro, si tratterebbe di una spesa per sostenere interamente le vendite. Il presidente americano Obama in un'intervista alla TV all'Arabia dice ai musulmani: non siamo vostri nemici, siamo interessati al benessere del mondo islamico. E poi il calcio, stasera alle 20.30 al turno infrasettimanale di Serie A, la capolista Inter gioca a Catania ma scoppia il caso Balotelli che rifiuta la convocazione. Sempre per il calcio, guai in vista per il fuoriclasse brasiliano Robinho che gioca nel Manchester City accusato di violenza sessuale nei confronti di una 18enne. Il calciatore, arrestato e rilasciato su cauzione, nega tutto. E come di consueto sentiamo a quest'ora il commento del direttore del Sole 24 Ore dedicato oggi proprio all'intervista di Barack Obama alla TV all'Arabia. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Il fatto che Barack Obama abbia concesso a sorpresa un'intervista televisiva a un'emittente araba costituisce un gesto di straordinaria forza e sicurezza. Questa volta Obama non è stato costretto a nascondere il suo secondo nome, Hussein, ha parlato dei suoi parenti musulmani, dell'Indonesia che gli è familiare, ha riconosciuto che gli Stati Uniti hanno commesso degli errori, ha cercato un dialogo con la parte moderata dell'Islam, quella parte che spesso in questi anni si è ritrovata priva di argomenti da contrapporre agli intransigenti e agli estremisti. Ha parlato direttamente a 1.300.000.000 di musulmani, non era mai accaduto prima. L'America continuerà a dare la caccia ai terroristi come prima, ma si impegnerà di più perché cresca nei paesi islamici una opinione pubblica non soggetta a troppi pregiudizi antioccidentali. Una scelta tutt'altro che debole, anche se rischiosa, più impegnativa di un grande dispiegamento militare, ma la prima in grado di isolare il terrorismo, togliendogli l'area grigia del consenso che in molti paesi purtroppo è assai vasta. Grazie allora al direttore del Sole 24 Ore Ferruccio De Bortoli. Do il buongiorno al ministro degli esteri Franco Frattini. Ministro, buongiorno. Buongiorno. Ci sono tanti temi di cui parlare, ma il caso Battisti è quello in primo piano. Senta ministro, ieri c'è stato il ritiro, è stato richiamato l'ambasciatore italiano dal Brasile. È un gesto che a livello diplomatico è un gesto molto grave. Perché si è arrivato a questo? Ma siamo arrivati a questo per tre motivi, fermo restando che il Brasile è un paese amico dell'Italia e continuerà ad esserlo. Noi non abbiamo accettato la decisione del ministro della giustizia brasiliano che ha in qualche modo fatto credere nelle sue motivazioni che la consegna all'Italia di un terrorista, quale è Cesare Battisti, esporrebbe questa persona nelle carceri italiane addirittura ad una persecuzione, a rischio di tortura. Questo è assolutamente inaccettabile in principio. Poi abbiamo detto che quel delitto, quello commesso da Battisti, è un delitto tutt'altro che politico, è un crimine gravissimo di un terrorista che ha ucciso persone e che è stato condannato da tribunali indipendenti italiani all'ergastolo. E la terza ragione è che noi non possiamo accettare che il caso sia liquidato in poche ore, come ha fatto il procuratore generale del Brasile, dicendo che addirittura l'estradizione va archiviata, cioè messa in un cassetto. Per queste tre ragioni noi abbiamo insistito con il Brasile che occorre più cooperazione giudiziaria, che il loro atteggiamento non è condivisibile, che andremo fino in fondo difendendo gli interessi del governo italiano e quindi ho dovuto, direi, per un senso di responsabilità anche morale, penso alle vittime che hanno subito questa orribile assassinio compiuto da Battisti, i parenti delle vittime ho dovuto assumere l'atto di convocare, sì, richiamandolo in Italia, l'ambasciatore Valenzisi. Non si è mai fatto, per esempio, con la Francia, sappiamo la dottrina Mitterrand, anche lì ci sono dei terroristi o ex terroristi che sono liberi. Perché con il Brasile adesso? Ma noi abbiamo avuto un caso recente, quello della terrorista Petrella, sì, che la Francia non ci ha consegnato, ma con motivazioni. Noi abbiamo protestato molto, ma le motivazioni erano quelle di uno stato di salute molto molto grave. La dottrina Mitterrand è stata superata dal presidente Sarkozy, tanto è vero che la Francia ha collaborato proprio all'arresto di Cesare Battisti. Ecco la differenza molto evidente. Per questo il presidente Berlusconi non vedrà Lula, era un incontro previsto a marzo? Ma certamente la presidenza italiana del G8 considererà e continuerà a considerare il Brasile come un partner importante. Ora, francamente, in queste ore il nostro atteggiamento è di fermezza. Attendiamo da parte del Brasile un passo di, direi, anche comprensione delle nostre ragioni. Ricordo che su questo l'opinione pubblica del nostro paese, i nostri cittadini sono uniti. Vedo che finalmente anche l'opposizione, con Veltroni, prende la parola e sostiene la posizione del governo, ma ancor prima e assai di più il capo dello Stato ha scritto una lettera molto chiara. In queste condizioni noi ci attendiamo dal Brasile un passo di collaborazione. Senta, Ministro, la vicenda dell'amichevole Italia-Brasile è archiviata. Cos'è stato? Una buttad del sottosegretario? Lo sport è sport. Io farò il tifo per la mia squadra, cioè l'Italia. Io spero che l'Italia vinca, sì, così gli daremo anche una sonora legnata sportiva, ovviamente, e ci divertiremo a vedere del buon calcio. Questa è tutta un'altra cosa. La questione Battisti è molto seria. Ma certo. Ministro, le chiedo, il presidente Obama vuole chiudere il carcere di Guantanamo entro un anno e si è detto l'Unione Europea dovrebbe accogliere volontariamente i vari stati alcune delle persone rinchiuse. L'Italia, tramite lei, si è detta possibilista. Perché dovremmo accogliere alcuni dei prigionieri di Guantanamo? Ma guardi, tutta l'Europa ha gridato ed acclamato, quando c'era Bush, alla chiusura di Guantanamo, vergogna, violazione dei diritti, e abbiamo detto che applaudiamo la decisione del presidente Obama. Il presidente Obama chiude Guantanamo e l'Europa dice: adesso, cara America, sono fatti tuoi. Io credo che la solidarietà tra Europa e Stati Uniti, e in particolare tra l'Italia e gli Stati Uniti, imponga di cercare una soluzione. Io non ho detto quali casi e se vi saranno casi, ho detto che l'Italia deve collaborare in modo positivo. Abbiamo delle richieste informali, stiamo verificando dei nomi, ma devo dire francamente l'atteggiamento di questa Europa, che dopo aver invocato per anni il multilateralismo, adesso con Obama trova un gesto positivo come la chiusura di Guantanamo e poi dice: sono fatti tuoi. Beh, insomma, questa non è un'Europa molto solidale con gli Stati Uniti d'America. Noi lo siamo, ecco la dimostrazione che questo governo vuole collaborare, come io ho detto alla signora Clinton l'altro ieri, fortemente con la nuova amministrazione americana. Intanto, ieri, nel giorno della memoria, lei ha fatto un attacco duro alla trasmissione di Santoro, quella su Gaza, insomma sulla guerra. Ha parlato di linguaggio che sconfina nell'antisemitismo. Non le sembra una critica troppo dura per una trasmissione televisiva? Ma vede, non è una critica troppo dura, è una critica sincera, è quello che politicamente io ho sempre ritenuto. Noi siamo liberi di criticare lo Stato di Israele, siamo liberi di dire che la politica del governo Olmert è una politica sbagliata, ma quando ad esempio si dice nei filmati, io non ho accusato personalmente Santoro di antisemitismo, gliel'ho anche detto perché non ho mai offeso nessuno in vita mia. Lui però chiede le scuse, dice, o si scusi. Ma io gli ho risposto, ma non è una questione di scuse, io gli ho detto: guarda, io non l'ho offesa e non l'offenderò mai nessuno, quindi questo è ovvio. Esprimo una mia valutazione, che è la seguente: se nel dipingere le scene con dei filmati che fanno vedere soltanto una sola parte, tanto che la signora Annunziata, che certamente di centrodestra non è, se n'è andata sdegnata da quella trasmissione, dicendo ad esempio gli ebrei attaccano, i carri armati degli ebrei, le truppe ebree. E anche questa sfumatura pochi l'hanno colta, quelli erano israeliani. Quando si dice ebrei si induce, non era Santoro che parlava, erano servizi. Allora non confondiamo la critica a Israele con un'accusa generica che può, non nelle persone sensate, ma nelle piazze di coloro che bruciavano le bandiere, essere raccolta come un messaggio antisemita. Io queste cose le ho sempre dette e le continuerò a dire, sono una critica politica. Ministro, veniamo per concludere alla vicenda che è su tutti i giornali. È vero, è un episodio di criminalità, l'arresto per lo stupro di Guidonia, ma se lei ha visto già i giornali questa mattina, le cito qualche titolo. Il Riformista, Branco rumeno, libero, furti, rapine, omicidi agli stranieri dell'est al primo posto. Il Giornale addirittura il titolo d'apertura, troppi criminali rumeni. E Mario Cervi, non un giornalista qualunque, nell'editoriale scrive: ora bisogna sospendere Schengen, cioè quel trattato che permette di libera circolazione. C'è un problema di criminalità legata anche ad alcuni paesi, secondo lei? Ma guardi, io sono stato in Europa il responsabile dell'allargamento di Schengen e credo di aver fatto bene. Schengen vuol dire che ciascuno di noi, persone per bene, può circolare senza mostrare il passaporto da Roma fino a Helsinki, e credo che questa sia una grande libertà a cui non si deve rinunciare. Dobbiamo accompagnare delle misure di contrasto ai criminali. Io non credo che si debba sospendere Schengen, credo che si debba fare di più, come questo governo sta facendo, beccandosi accuse assolutamente ingiustificate di avere la mano troppo dura per, come dire, sradicare questa criminalità che purtroppo ottiene, come dire, tante volte una mano troppo leggera, quando vi sono scarcerazioni, quando vi sono tolleranze eccessive. Io non direi che sono i criminali, tra virgolette, rumeni. I criminali sono criminali sempre, da qualsiasi paese essi provengano. Ci sono dati statistici, e chiaramente i dati sono dati. La comunità rumena è quella dalla quale purtroppo viene una gran parte di coloro che commettono reati in Italia, poi vi sono persone che vengono da altri paesi, ma la Romania è un paese ormai dell'Unione Europea con cui dobbiamo e possiamo collaborare, ad esempio, affinché questi criminali tornino a scontare la pena nel loro paese. Questo bisogna dire. Credo che la Romania debba accettare, essendo paese europeo, che un criminale arrestato che deve scontare una pena, quando la pena viene comminata, la sconta nel carcere del suo paese, in questo caso. Questo, a mio avviso, sarebbe la vera solidarietà europea su cui noi vogliamo lavorare, senza puntare il dito contro nessuno. Intanto, Ministro, la ringrazio ovviamente per essere stato con noi. Franco Frattini, Ministro degli Esteri, e insomma staremo a vedere se anche sul caso Battisti ci saranno degli sviluppi. Noi siamo arrivati al momento del traffico, poi nell'ultima parte parleremo, ma non tanto di politica in sé, ma di politica con un lato un po' gustoso, perché ogni anno c'è il cosiddetto, prima l'assalto alla diligenza, prima c'era nella finanziaria, adesso la finanziaria è stata blindata e dunque lì non c'è, ma c'è questo mille proroghe, che è una legge che insomma ogni anno rispunta, nella quale si sbizzarriscono i politici per cercare di ottenere dei finanziamenti per le cose un po' più strane, alla faccia della crisi. L'ultima parte di 24 mattino, come detto, c'è un appuntamento annuale in Parlamento che è definito il cosiddetto decreto mille proroghe, nel quale insomma ci sono dei tentativi, a volte stoppati, a volte no, di mettere emendamenti per cercare di ottenere dei finanziamenti anche a volte un po' bizzarri. Ieri ne ha scritto Carmelo Lo Papa su Repubblica. Carmelo, buongiorno, è cronista. Buongiorno, cronista sempre molto attento. Ecco, il mille proroghe è così, cioè come lo possiamo definire in maniera molto brutale, fuori dai denti? Ma il mille proroghe è un disegno di legge, un decreto, anzi, per la verità molto tecnico, in teoria molto tecnico, è un provvedimento che contiene la proroga, appunto, meglio, tante proroghe di altri decreti in scadenza. Per evitare la scadenza di questi provvedimenti, allora si adotta questo provvedimento unico che proroga appunto i termini, però diventa l'occasione, si trasforma in genere annualmente in una legge omnibus, perché i parlamentari, che ormai purtroppo per loro non possono più incidere sulle grandi scelte di sistema, sulle linee guida esclusivamente dal governo, ecco, si sbizzarriscono per cercare un po' di finanziamenti. No, tu ne hai riepilogati qualcuno, per esempio negli emendamenti presentati, 260 in tutto, credo il senatore De Gregorio ha chiesto dei fondi per una TV, insomma, per che cosa? Per TV Saracino? No. Il senatore De Gregorio, per esempio, ma è uno dei tanti casi, ha chiesto che si allentino in buona sostanza i vincoli di quel provvedimento che consente il finanziamento del 70% delle spese per un ammontare complessivo di 4 milioni che il governo stanzia in favore di TV satellitari, ma anche emittenti radiofoniche o televisive che fanno capo a un parlamentare. Ebbene, lui, ricordiamo a chi ci ascolta, è il proprietario, a lui fa capo una TV satellitare. Ma sarà un caso, sarà sicuramente una coincidenza. Un altro emendamento, tra l'altro, io lo voglio salutare. Allora, che cosa succede? Sapete che c'è il finanziamento ai partiti, no? Tutto previsto dalla legge, se ne è tanto parlato, era stato tolto, poi è stato rimesso. Comunque, chi ha dei parlamentari ha diritto a dei finanziamenti. Solo che per fare i finanziamenti bisogna fare delle richieste, adempiere, insomma, delle richieste formali, rispettare delle scadenze. Voglio salutare Alexander Mittermeier, buongiorno. Buongiorno. Lei è il direttore amministrativo della SVP. Allora, che cosa è successo? Uno dice nell'efficiente Alto Adige, nella precisa, sicuramente il luogo dove nessuno mai violerebbe una regola o si sbaglierebbe nel tenere una scadenza a mente, lei insomma ci spiega perché si è dimenticato di chiedere il finanziamento al partito, insomma. Prima di tutto un buon ascolto agli elettori, sì. E un buongiorno. Allora, a causa di una svista avevamo un cambiamento all'interno della segreteria, un cambiamento di personale, abbiamo mancato l'appuntamento per porre questa domanda. Naturalmente quando ci siamo accorti abbiamo immediatamente inoltrato la domanda, però eravamo fuori termine. E tutto questo è diventato dunque un emendamento, no? Carmelo dall'altra parte, è diventato un emendamento perché quattro parlamentari hanno detto proroghiamo i termini per chiedere i finanziamenti ai partiti, sostanzialmente. Rimborsi elettorali, sì, per una puntata di 1,8 milioni di euro. E a Mittermeier, lei è di fatto è responsabile di questa svista, non lo è materialmente, ma insomma il partito sta guardando a lei a dire ma che ha fatto? Ci ha fatto perdere 2 milioni di euro. Ma adesso siamo in buona compagnia, perché anche in passato o anche recentemente a delle elezioni regionali è successo che qualche partito ha mancato questo appuntamento per la domanda. Si vede che non è così semplice e che una svista può anche accadere. Sì. Naturalmente non si fa di proposito, ovviamente, e con ciò, avendo anche raggiunto gli obiettivi, avendo gli parlamentari e senatori eletti, avendo avuto i voti, avendo fatto la rendicontazione, tutto in regola, secondo noi è un po'... Però lei sa che la legge non ammette... Quello è chiaro, ignoranza. Però anche in passato si è potuto sanare queste sviste, come le vogliamo chiamare. Ma insomma, ma com'è possibile? Allora, vogliamo spiegarlo, cioè sostanzialmente avevate una segretaria che si occupava di questo, è andata via per motivi che non vogliamo sapere, si è dimenticata di dirvi guardate che entro il giorno tot dovete fare la domanda e voi... Ovviamente le consegne sono state date in modo non adeguato, non esaustivo. Noi sapevamo che c'erano delle rendicontazioni da fare, avendo delle elezioni anticipate, 70 giorni di tempo per organizzare tutto, quando uno ha il simbolo che è stato depositato, quando alla vista dei candidati depositata, si concentra naturalmente in questo stretto tempo sulla campagna elettorale e in questo stress. Lo stress rischia di farle giocare 2 milioni, non è che il partito li chiede a lei poi, no? Non penso. Però naturalmente i soldi servono ai partiti, nella democrazia questi soldi sono importanti perché si va a contatto con la popolazione, per carità, si ma fa certo. Istruzione politica. Carmelo Lo Papa, che possibilità ha Alexander Mittermeier, direttore amministrativo dell'SPP, di non venire additato come lo sbadato del partito? Ce lo conceda Mittermeier, e che gli ha fatto perdere 2 milioni, cioè passerà questo emendamento oppure no? Ma in genere i partiti tra di loro dei favori in questo senso lo fanno senza distinzione di colore politico. Il problema è, può essere per l'SVP il veto della Lega, perché credo che abbiano nei loro territori dei conflitti. Cioè dei conflitti. Non riusciamo a battervi alle urne, intanto vi togliamo 2 milioni. Esatto, l'emendamento più curioso, che inspiegabile, che hai trovato spulciando un po' tra gli emendamenti, qual è? Anche bizzarro, non so, le richieste più strane. Ma la cosa che non ha nulla a che fare, ecco, con la svista, il povero Mittermeier insomma ha dimenticato una scadenza, ma certo non si è trattato di una svista, la proposta avanzata da Domenico Benedetti Valentini e da un gruppo di altri senatori del PDL, che vorrebbe veder sanato con una sorta di una tantum da 1.000 euro tutte le sanzioni comminate in questi ultimi anni per violazioni ripetute e continuate mediante affissione di manifesti politici. Ah, che sappiamo che in campagna elettorale è una giungla, insomma, è una battaglia, no? Si viola mettendo i manifesti, i santini dovunque, insomma. E loro invocano una sanatoria a partire dal 2005, ecco, cancellare tutto col pagamento di soli 1.000 euro. Accidenti, insomma, è un bel colpo di spugna sulle multe. Senta, Alexander Mittermeier, lei, ma voglio dire, adesso se ci permette, abbiamo anche un po' scherzato, lo sbadato, insomma, dicendo ma come mai nell'efficiente Alto Adige può succedere questo, ma lei sta vivendo giorni un po' difficili, immagino. Sto vivendo un anno difficile, perché questo è un peso che uno si porta sulle spalle, naturalmente. Io come direttore amministrativo mi assumo le responsabilità, naturalmente le sviste si pagano, io spero che si riesca a sanare il caso, perché è molto importante non solo per il nostro partito, per tutti. No, ma certo. Siamo un partito molto efficace e serio, presente dal 1948 in Parlamento. Siamo rappresentanza di una minoranza etnica tedesca ladina in Italia. No, ma sappiamo che le posso dire, coraggio, le diciamo, insomma, speriamo forse che venga, che passi almeno questo emendamento, che è davvero una svista, e se no coraggio, insomma, se ne faccia una ragione Mittermeier. Io la ringrazio, così come ringrazio Carmelo Lo Papa di essere stato con noi, insomma, in maniera carina a spiegare questo mini assalto alla diligenza. Vedremo se ci sarà. E in chiusura i saluti a Laura Marchesi, Alessandro Marco Tulli in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Tra poco Giuliano Ferrara parla della decisione di Carlo De Benedetti di lasciare la presidenza delle sue società. 800 24 00 24 per intervenire, e noi ci risentiamo domattina.